Quella primavera le nevi se ne andarono di corsa. Il torrente scrosciò giallo e spumeggiante fino alla soglia della porta. Poi, durante la notte, le praterie si riempirono di fiori selvatici. L'aria profumava di violette e gli alberi di prugne fiorivano. Per tutto il giorno la porta rimase aperta e nel pomeriggio Caroline prese il bambino e attraversò il torrente fino al campo dove Charles stava arando. L'intera terra era esuberante di cambiamenti e promesse. Il cielo era di nuovo pieno di oche e anatre selvatiche, ma quest'anno non rimasero a nutrirsi nelle paludi. Scesero a riposare, poi volarono verso nord perché videro i carri coperti e sentirono martelli e seghe. Quell'anno i binari della ferrovia sarebbero stati spostati a meno di 10 miglia dalla proprietà. Numerose famiglie erano accampate nel nuovo sito della città e stavano sorgendo edifici in muratura. Il legname veniva ancora trasportato dall'est, ma l'anno successivo sarebbero partiti i treni. Ovunque gli uomini stavano prendendo casa. A 6 miglia, 4 miglia, 3 miglia di distanza c'erano macchie di baracche di zolla nella prateria. Caroline e Charles erano felici di essere arrivati per primi e di aver ottenuto la casa migliore. Per tutto l'inverno le zolle dure erano marcite sul loro terreno arato. Ora Charles arò di nuovo i 50 acri e seminò il grano. Avrebbero avuto il primo grano di quel paese. A sud del sito della città, un uomo è stato ucciso da alcuni rivendicatori che avevano preso la sua proprietà mentre svernava in Oriente. Il territorio non era ancora organizzato, non c'erano leggi. Una squadra inseguì i cacciatori di rivendicazioni, ma questi fuggirono verso ovest e riuscirono a scappare. Se Caroline avesse ascoltato la signora Baker, l'uomo ucciso avrebbe potuto essere Charles. Una mattina di maggio, quando il campo di grano era verde e Charles stava piantando patate nella zolla di terra appena rotta, un carro coperto trainato da buoi si avvicinò lentamente attraverso la prateria. Quella sera Charles mostrò a Caroline un fuoco da campo a mezzo miglio di distanza, appena oltre la testa del loro torrente, e il mattino dopo gli stranieri stavano costruendo una baracca di zolle. «Avremo dei vicini», disse Charles soddisfatto. Il mattino seguente finì di piantare le patate a zolle e percorse il miglio per dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Tornò con una grande delusione. Erano svedesi e parlavano a malapena l'inglese. Qualche settimana dopo, all'ora di cena, il signor Svensson si affacciò alla porta. Charles si alzò di scatto e lo invitò ad entrare, ma lui scosse la testa. Era in piedi sulla soglia, un omone vestito di abiti polverosi, con le mani callose e indifese e un viso dolente e largo. I suoi occhi blu brillavano di lacrime. Allungò il braccio verso la vasta prateria e mise un suono simile a quello incessante del vento. Alzò due dita. Una mostrò era lui stesso, l'altra la lasciò in piedi da sola, sua moglie. Tese le mani a Caroline con implorazione e le lacrime gli rigarono le guance. Sua moglie era sola. Quel pomeriggio Caroline indossò il suo vestito e la sua cuffietta migliori e prendendo il bambino in braccio attraversò la prateria. Era un'avventura andare così lontano da sola, sotto un cielo enorme. Non c'era altro rumore che quello del vento tra le erbe selvatiche. La baracca degli Svensson era minuscola nell'immensità della terra e dell'aria. Al di là di essa un filo di polvere seguiva il signor Svensson lungo un solco. Con la lenta squadra di buoi stava spaccando la zolla di terra. Caroline si mise accanto alla coperta che copriva l'ingresso della baracca e chiamò timidamente: «Signora Svensson?» Una donna dai capelli gialli, non più grande di Caroline, sollevò la coperta e gridò. Tremando per l'eccitazione gioiosa, condusse Caroline per mano nella baracca. L'unica sedia era il sedile del carro, preso dal carro stesso. La signora Svensson, sorridendo con impazienza e parlando in modo incomprensibile, esortò Caroline a sedersi. Poi, con grande sorpresa di Caroline, mise del caffè e dell'acqua nella pentola e si affrettò a metterla sul fuoco di trucioli di bufalo all'aperto. Non aveva un fornello. Il tettuccio di tela del carro era piegato sul pavimento e su di esso era stato preparato un letto di piume con cuscini e copriletto. Barili e scatole erano ordinatamente disposti in un angolo. C'erano due grandi cassapanche dipinte e sul muro di zolle era appeso il quadro di una scogliera che si protendeva nel mare. Il quadro e la cornice erano coperti da una zanzariera rosa per proteggerli dalle zanzare. La signora Svensson aprì le casse e mostrò a Caroline la sua Bibbia svedese e una grammatica svedese-americana. Stese delle stoffe ricamate e uno strano vestito stravagante che Caroline sapeva essere il suo abito da sposa perché le indicò l'anello. Coprì una delle scatole con la stoffa più bella e vi pose sopra due tazze e piattini e poi portò il caffè. Caroline non aveva mai immaginato tazze così delicatamente sottili. Poteva vedere il caffè attraverso di esse. La signora Svensson era così ansiosa di accontentarla che le tremavano le mani e i piccoli sguardi supplichevoli le partivano dagli occhi tra un sorriso e l'altro. «Tazza e piattino», disse Caroline indicando. La signora Svensson ripeté «Tazza e rise scuotendo la testa gialla». I suoi occhi azzurri si strinsero fino a scintillare e tutti i suoi forti denti bianchi si mostrarono. A Caroline piaceva. «Piattino», disse Caroline. «Piattino», disse la signora Svensson con entusiasmo. Poi cominciò a indicare altre cose. Era come un gioco. Si stavano divertendo, ridevano insieme. «Babi», ripeté più volte la signora Svensson guardando affamata il bambino. E Caroline glielo lasciò in braccio. Lui rideva e scalciava tra le sue braccia. Sembrava che anche lei gli piacesse. Quando Caroline se ne andò, la signora Svensson la portò vicino al fienile a zolle per mostrarle due arnie di api. Caroline le insegnò api e miele e tornò a casa entusiasta di tante cose da raccontare a Charles. In seguito, a volte, due volte alla settimana, Caroline e la signora Svensson trascorrevano un pomeriggio insieme nella piroga o nella baracca. Si facevano compagnia a vicenda. Nelle altre baracche di Zolla c'erano solo uomini e le donne nel sito della città erano a 10 miglia di distanza. I buoi non potevano andare così lontano in un giorno e i cavalli lavoravano troppo duramente nei campi per essere usati per il proprio sollazzo. Ma Caroline sentiva che il paese si stava sistemando rapidamente quando aveva un vicino a solo mezzo miglio di distanza. Non c'era davvero nient'altro da desiderare. I raccolti erano fiorenti, ci sarebbero state patate, rape, carote e farina per il prossimo inverno e soldi a sufficienza per altre forniture. L'anno prossimo, se tutto fosse andato bene, avrebbero avuto una mucca e l'anno dopo ci sarebbe stato un vitello. In meno di 5 anni Charles avrebbe ottenuto il titolo di proprietà del terreno e poi avrebbe costruito una casa di legno. Avevano intenzione di costruire 4 stanze e di finirne 2 all'inizio. Piantarono i semi dell'albero solitario in una doppia fila intorno al luogo scelto per la casa. Ogni giorno, quando aveva finito di lavorare, Caroline trasportava decine di secchi d'acqua dal torrente alle piantine di cotone. Un giorno sarebbero diventati un alto frangivento intorno alla sua casa. Quando si chinava sulle piccole foglie e vedeva l'acqua affondare nella terra assetata, provava una profonda soddisfazione. Una mattina di fine giugno fu spaventata da un improvviso oscuramento della stanza, mentre si trovava nella vasca da bagno. Charles era sulla soglia, sapeva che era successo qualcosa. «Vieni!» disse bruscamente. «Voglio mostrarti qualcosa!» La sua voce tremava per l'eccitazione. Si tolse il sudore dalle braccia, si asciugò le mani. Charles prese in braccio il bambino con la stessa noncuranza con cui lo avrebbe preso un fagotto. Salì il sentiero così velocemente che Caroline quasi correva per stargli dietro. Non vide nulla di insolito. Il vento soffiava, l'erba selvatica si increspava, non c'erano nuvole in cielo, la baracca di zolle degli Svensson si trovava accanto alla sua ombra, la polvere seguiva l'aratro del signor Svensson, macchie gialle di edifici erano ammassate sul sito della città e una macchia di polvere soffiata contro l'orizzonte mostrava che gli uomini stavano lavorando come al solito alla ferrovia. Charles si diresse a lunghi passi verso la palude. L'erba grossolana della palude era più alta di lei, frusciava aspramente lungo lo stretto sentiero e un odore terroso proveniva dalle sue radici, perché qui, nella palude, il ruscello si diffondeva e scompariva nel terreno, mantenendolo umido durante la siccità estiva. Seguì Charles fuori dalla palude e rimase a bocca aperta. Gli steli verdi del campo di grano si ergevano davanti a lei, alti fino al petto. «Guarda, Caroline, guarda!» disse Charles tremando. «Caroline, guarda!» Sembrava un buon raccolto e lei ne era felice. «In alcuni punti mi arriva le ascelle», disse Charles. «Certo, è ancora solo all'inizio». La sua voce si ruppe. «Se non arriva a 40 mogi per acro, mi mangio il cappello!» gridò. «È così bello!» disse. «Bello!» gridò. «Sai quanto vale il grano qui fuori? $1 al moggio! Questo raccolto vale $2000!» Il bambino strillava. Charles lasciò che lei lo prendesse, a malapena consapevole di lasciarlo tra le braccia della madre. «Guarda, guarda qui!» ansimò afferrando manciate di steli di grano, misurando le teste con il dito. «Caroline, guarda! Sono lunghi quasi come il mio dito!» «E guarda come si stanno riempiendo ogni chicco! $2000, ti dico, se ci porta un centesimo!» E rimase in piedi, stordita, zittendo il bambino. $2000! Una somma fuori dalla realtà! Non riusciva a immaginarla! Charles aveva risparmiato $106 lavorando alla ferrovia e con tutti quei soldi erano diventati ricchi, ma 2000! Lei disse stupita. «Potremmo avere la mucca!» «Una mucca!» Chas gridò. «Una mandria di mucche! Recingeremo il terreno, costruiremo la casa, ti comprerò un vestito di seta e avremo un calesse e una squadra di guida! Caroline! Oca!» La prese tra le braccia e la fece roteare vertiginosamente, saltellando e schiamazzando. «Siamo ricchi! Ricchi!» «Santo cielo, Charles! Attento al bambino! Charles, fermati!» Lui la strinse a sé e al bambino strillante ancora racchiuso nel suo abbraccio esuberante. La sua gioia ridente e ansimante l'attraversò tutta mentre guardavano il grano. Il grano era vero. Charles era sempre stato molto più veloce di lei. Lentamente lei arrivò a condividere la sua sensazione di liberazione, di espansione, che aumentava con il passare dei giorni. All'inizio questo la lasciò perplessa, perché non erano mai stati in difficoltà fino a quel momento. Erano sempre stati felici a loro agio e il futuro si era sempre presentato luminoso. Eppure ora era come se, infreddoliti fino alle ossa, fossero entrati in un luogo caldo. Ogni sera andavano a guardare il grano. Stavano in silenzio ascoltando il respiro della miriade di spighe nel vento. Guardavano le ondulazioni di verde più scuro e più chiaro che passavano sulle moltissime teste piegate. Giorno dopo giorno il grano cresceva. Nessun pericolo lo minacciava ormai. Il tempo delle gelate era passato, non aveva più bisogno di pioggia. Sotto il benefico fulgore del cielo, le teste sottili crescevano più carnose, i chicchi lattiginosi si gonfiavano fino alla punta di tutte le lunghe teste, ogni buccia si stava riempiendo e di giorno in giorno un po' di più affollava le spighe. Chas credeva che la resa sarebbe stata addirittura superiore a 40 moggi per acro, ma Caroline era prudente e si rifiutava di pensare a più di $2000. Tra i filari di piccole piantine di cotone, Charles iniziò a scavare la cantina della nuova casa. L'avrebbe costruita prima dell'arrivo delle nevi. «Non passeremo un altro inverno in questo buco nel terreno», disse. Ora disprezzava la piroga. Caroline non la disprezzava. La dimenticò pensando alla nuova casa. La sera Charles calcolò il legname che gli sarebbe servito, mentre lei si soffermava sulle linee che aveva tracciato sulla carta. Qui ci sarebbero state la cucina, la dispensa, la sala da pranzo, lì le due camere da letto, due camere da letto e un salotto. Lei era nata in una capanna di tronchi, ma Chas ricordava vagamente una casa dipinta di bianco, in Oriente, in Europa. Quella casa doveva essere come questa. La mente di Chas balzò all'anno successivo e a quello successivo ancora. L'anno prossimo, con l'intero quarto di sezione coltivato a grano, avremo un guadagno di circa $5000. Accidenti! Horace Greeley sapeva di che cosa stava parlando. Si accese come un pino che prende fuoco. Caroline, siamo nel West. Stiamo crescendo con il più grande paese del mondo. Tra 5 anni cavalcheremo alti, larghi e belli. Pensava che la proprietà non fosse sufficiente. Dovrei presentare una richiesta di risarcimento per gli alberi. Dovremmo piantare 100 alberi e coltivarli per 5 anni, disse. Non hai già le mani occupate? Ti faresti in 4 per coltivare 2 quarti di terreno. Lui rise a questo. Piccola oca, a cosa servono i soldi? Assumerò un aiuto. Che cosa semplice, non ci aveva pensato. Charles le apriva sempre panorami più ampi. Aveva ragione, avevano bisogno di più terra. Prima dell'alba era già in viaggio con il carro. L'ufficio fondiario si trovava nel luogo in cui sorgeva la città. Avrebbe potuto percorrere le 20 miglia e tornare a casa la sera stessa. Caroline rimase nella prateria sopra la piroga, tenendo in braccio il bambino e guardando fino a quando il carro non passò il lago. C'era un tradimento nella palude. La terra sembrava asciutta e solida, ma sotto di essa l'acqua scura giaceva nel terreno scuro. Si sentiva un fremito quando un carro vi passava sopra. La palude era lì, nascosta. Era innocua per i cavalli, che camminavano con sicurezza, e per le ruote dei carri, che non si fermavano. Era pericolosa solo per coloro che si fidavano della sua superficie ingannevole o che esitavano perché temevano le sue profondità sconosciute. Il carro si perse di vista nell'erba alta della palude. Solo il sedile si muoveva dolcemente in avanti come una barca che galleggia e Charles vi sedeva, vigile. Lentamente poi anche lui si perse di vista. Caroline pensò alla palude. Cavalli e carro emersero sul basso rialzo del terreno. Oltre il campo di grano, Charles stava guardando il grano. Si voltò e le fece un cenno con il cappello, e i cavalli avanzarono al trotto, e Charles e il carro si rimpicciolirono fino a scomparire nel vuoto della prateria. Il vento strattonava le gonne di Caroline. Già gli insetti stridevano al calore del sole e le cavallette saltellavano nell'erba secca, eppure, sotto il calore, il movimento e il suono sentiva il silenzio infinito in cui nessuna voce umana avrebbe risvegliato una sola eco. Il bambino cominciò ad agitarsi, il suo visino, la sua bocca sdentata che si lamentava, le scosse dei deboli pugni e la violenza dei morbidi piedini che scalciavano le fecero fremere la fossetta sulla guancia, lo tenne stretto contro il seno che si preparava ad allattarlo. Ecco. Ecco il piccolo uomo della mamma, povero bambino, deve fare il bagno, deve farlo. La giornata di lavoro era solo un guscio, riempito da un futuro più reale del presente. Nella nuova casa ci sarebbe stato un pozzo con una pompa, non avrebbe più portato l'acqua sulla riva del torrente. La bambina avrebbe avuto vestiti nuovi, morbide sottovesti di flanella e abiti trasparenti ornati di pizzo e ci sarebbero stati pavimenti di legno facilmente spazzabili e lavabili. Avrebbe lavato i panni nella grande cucina, dove ci sarebbe stato molto spazio e ci sarebbero state 2 grandi vasche. E quando avesse strizzato i panni dal sudore, li avrebbe gettati nell'acqua di risciacquo. Sarebbe stato molto più facile che fare tutto con una piccola vaschetta. E all'improvviso si fermò. La camicia di Charles, rovinata e sbiadita dal sudore, si attorcigliò tra le mani. E i suoi occhi si allargarono al pensiero. Avremo così tanti vestiti che farò il bucato solo una volta alla settimana. Ma una nota più feroce nel suono del vento la mise in allarme. La piroga, la capanna, era al sicuro da un ciclone, ma il campo di grano. Dalla porta non riusciva a vedere una nuvola, il cielo era una vibrazione incolore di calore e il vento le bruciava il viso. Questi venti caldi che soffiavano senza sosta stavano facendo maturare il grano. Spogliato del pannolino, il bambino dormiva su un panno steso sul pavimento per mantenersi fresco. La sua pelle era pallida e umida e c'era qualcosa di pietoso nel suo sonno indifeso, nelle piccole dita arricciate e nel collo sottile. Ma il suo corpo era solido e robusto, era un bambino sano. Prima di svezzarlo avrebbero avuto una mucca. Quel pomeriggio arrivò la signora Svensson. Caroline era turbata dall'indefinibile cambiamento nella loro amicizia. C'era come un imbarazzo tra loro. Non faceva differenza che gli Svensson avessero solo i loro pochi acri di patate a zolle, ma una differenza c'era, anche se dicevano a se stessi che non c'era differenza. La signora Svensson aveva portato i suoi lavori all'uncinetto e Caroline srotolò il fazzoletto dai metri di pizzo stretto che stava lavorando a maglia per i nuovi abiti della bambina. Al riparo della piroga, della capanna, si sedettero a lavorare e a parlare, così abituate al rumore del vento da non sentirlo. Caroline non poteva parlare della nuova casa senza temere il contrasto con la povera baracca di zolle della sua amica, tuttavia non parlarne significava enfatizzarla con il silenzio. Se la prossima primavera il signor Svensson avesse seminato il grano e avesse avuto un buon raccolto, anche loro avrebbero potuto avere una casa di legno, ma dire questo sembrava troppo condiscendente. La signora Svensson parlava con impazienza del grano e della nuova casa. Annuendo ripeteva "Ist gut, gut". Stava assicurando a Caroline che non era invidiosa, ma quando chiese dove fosse Charles, Caroline non poté dire che era andato a presentare una richiesta di risarcimento per un albero. Ciò significava che avrebbero avuto il doppio della terra degli Svensson e disse "È andato al cantiere della città". Cadde un po' di silenzio ed entrambe parlarono contemporaneamente per romperlo. Quando la signora Svensson ripiegò il suo uncinetto e si mise la cuffietta, chiese "Tu com? Casa mia?" Caroline rispose troppo calorosamente "Sì, certo". Un rossore scurì le guance abbronzate della signora Svensson e lei disse con dignità "Gut, you com? Welcome". E le guance di Caroline bruciarono. Dall'alto del sentiero guardò la sua amica allontanarsi e provò un senso di smarrimento, ma disse a se stessa che quando la nuova casa fosse stata completata avrebbe accolto la signora Svensson in modo così caloroso e avrebbe condiviso così generosamente tutta la sua fortuna che la signora Svensson avrebbe saputo che il denaro non avrebbe fatto alcuna differenza nella loro amicizia. Il sole stava tramontando. E lei portava fedelmente l'acqua alle piantine di cotone, raddrizzando la schiena, stanca, guardò il buco grezzo nella terra che sarebbe stato la loro cantina. Pensò alla casa bianca, protetta da una barriera frangivento di alberi ad alto fusto, circondata da campi ricchi di grano. La loro casa. Il bambino non ne avrebbe mai conosciuto un'altra. Sarebbe cresciuto da ragazzo e da uomo nella grande casa bianca. Avrebbe lavorato nei campi di grano e nei grandi fienili, avrebbe cavalcato il suo cavallo sulle praterie, non avrebbe avuto alcun ricordo di una vita povera e affamata in una semplice capanna a forma di piroga. Il vento sferzava le sue gonne sbiadite, il bordo del sole, come una goccia di tintura, diffondeva un colore roseo intorno all'intero bordo del mondo. Alzò il viso al vento forte e il suo cuore in espansione sembrò racchiudere l'enorme terra, il grande cielo, l'intero occidente con la sua abbondanza di gioia e di libertà. Era buio quando sentì il carro e andò incontro a Charles nel fienile con una lanterna. La luce cadde su un carico di legname e dietro il carico c'era una nuova falciatrice rossa con le parti in acciaio scintillanti. Sul sedile accanto a Charles erano ammassati dei pacchi. Saltò sul volante e la strinse in un braccio che le tolse il respiro dai polmoni. Indovina cos'ho per te. Ma Charles, come. Oh, non ti sei indebitato? Perché no? Siamo bravi a farlo, no? Non c'è niente di meglio di quello che avremo. Dovresti sentire come parlano in città del nostro grano. Ho presentato una richiesta di risarcimento per il quarto di sezione al di là del torrente. Abbiamo la migliore mezza sezione di questo paese. Quando sarà tutto grano, perbacco, non penserai che abbia guidato per 10 miglia con un carro vuoto. Dobbiamo avere la macchina per falciare, no? E il legname? Lei condivise la sua eccitazione, ammirando mentre lui le mostrava la meravigliosa macchina con le sue leve che alzavano e abbassavano i coltelli affilati e il suo sedile di ferro su cui un uomo poteva viaggiare a suo agio mentre lavorava. Accarezzò il legname e riprese fiato quando Charles le indicò 4 ante di finestra e strappò la carta per mostrarle i vetri veri. Lui le riempì le braccia di pacchi, quello morbido, lei sapeva, era di abiti, e lei esclamò: "Oh, Charles, non dovresti!" Ma lui le stava guardando gli occhi. Non c'era mai stata una cena del genere, una serata del genere. Charles aveva portato una bistecca di manzo, aveva portato caramelle e uvetta. E persino 1 chilo di burro e 1 chilo di zucchero bianco. Aveva portato un sonaglietto per il bambino, un corno di latte e un paio di stivali troppo grandi per lui, e il morbido pacchetto rivelava metri di scintillante seta marrone. Caroline sussultò, incredula, ma era davvero seta. La toccò con riverenza. Charles le mise un braccio intorno alle spalle e le accarezzò i capelli con la guancia. «I tuoi capelli sono molto più setosi. Forse mi sono dimenticato di dirtelo, ma è bello averti qui. Sono contento di averti con me». Cercò di parlare con leggerezza, ma un grido gli uscì dal cuore. «Grazie a Dio, potrò prendermi cura di te e del bambino come dovrei». Non ne aveva mai dubitato. Non aveva immaginato che sotto la sua gaia sicurezza a volte aveva avuto paura anche lui, temendo di non essere in grado di prendersi cura di moglie e figli come un uomo dovrebbe. Ora non si vergognava di farglielo sapere, perché la paura era sparita, aveva dimostrato cosa poteva fare nel West.